Corri Forrest Gump, scappa e fallo in fretta. Tanto qua non troverai nulla che ti interessa. Parlami di ogni tramonto che il fiato ti spezza. Eccomi, t'ascolto e porto sicurezza. Sono solo nella via, con un asso nella manica. Ma un castello di sabbia e c'è una donna che ci abita. Scappare dalla vita è un fuoco che ti lacera. Quando la tua gioia è un dolore con la maschera. Questa è casa mia, anche se non la riconosco. Ed è per questo che trasformo i ricordi con l'inchiostro in qualcosa di concreto che mi faccia ricordare gli angeli pronti a schiacciare ogni diavolo, ogni mostro. Non lo sai cos'è, no. La vita per me è un continuo chiedermi come sarebbe andata se, tra voglia di scappare e di restare qua, nascondere a me stesso il come sarà. E in un mondo che ci tiene distanti, ognuno è preso in fondo solo da sé. I sentimenti sono sempre più grandi, ma si nascondono e mi chiedo perché. Tra religioni, eretici e santi, dopo la morte cosa ci sarà? Sono scappato l'altro ieri di casa, alla ricerca della serenità. E in un mondo che ci tiene distanti, ognuno è preso in fondo solo da sé. I sentimenti sono sempre più grandi, ma si nascondono e mi chiedo perché. Tra religioni, eretici e santi, dopo la morte cosa ci sarà? Sono scappato l'altro ieri di casa, alla ricerca della serenità. Ancora attacco per difesa, un pacco con scritto fragile. Combatto per l'ascesa di uno sguardo e non è facile. Con tutta la voglia aspetto nella soglia, un passo avanti, un passo indietro, e tetro come malavoglia. E chi è che dorme su quel letto dove sono andati tutti? Sono le norme di un distretto che distorte ci ha distrutti. È scritto anche sul foglio e la penna lo marca. Giro il mondo e 900, zero navi, c'è una barca. E solo con le rime che sono andato oltre, solo il mare non è mai cambiato, spinge ancora forte. Dai, bello non mollare, sembra che mi dica addio, quando solo un pezzo potrà dirti ciò che provo io. Non scappo più di casa, io vado via diverso. Sono scappato anni fa perché non ero più lo stesso. Avanti metti in moto, lo senti quanto è vuoto il cuore di un uomo pronto ad un nuovo trasloco. E in un mondo che ci tiene distanti, ognuno è preso in fondo solo da sé. I sentimenti sono sempre più grandi, ma si nascondono e mi chiedo perché. Tra religioni, eretici e santi, dopo la morte cosa ci sarà? Sono scappato l'altro ieri di casa, alla ricerca della serenità. E in un mondo che ci tiene distanti, ognuno è preso in fondo solo da sé. I sentimenti sono sempre più grandi, ma si nascondono e mi chiedo perché. Tra religioni, eretici e santi, dopo la morte cosa ci sarà? Sono scappato l'altro ieri di casa, alla ricerca della felicità. E in un mondo che ci tiene distanti, ognuno è preso in fondo solo da sé. I sentimenti sono sempre più grandi, ma si nascondono e mi chiedo perché. Tra religioni, eretici e santi, dopo la morte cosa ci sarà? Sono scappato l'altro ieri di casa, alla ricerca della serenità. E in un mondo che ci tiene distanti, ognuno è preso in fondo solo da sé. Ma i sentimenti sono sempre più grandi e si nascondono e continuo a chiedermi perché. Times, scappato di casa. A tutti quelli che sono scappati di casa almeno una volta con la testa. A tutti quelli che poi sono tornati. E a tutti quelli che sono ancora qua. Leggimi dentro, qui più che mai.